Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La prima volta, dopo la mia nomina Presidente del Consiglio, andai a Bonn, perché allora la cancelleria era a Bonn, e fu un lungo colloquio col cancelliere, bello, pieno, e mi accompagna l'elicottero, e dice, ah, come è stato bello, proprio mi sono trovato bene con te, e poi mi guarda e dice, ma chi viene la prossima volta? Ecco, questo era Helmut Kohl, affettuoso e poi pungente, no? E in una frase mettevo in rilievo tutto il calore, la possibilità di cooperare assieme, ma anche la debolezza del nostro paese. Questo è il ricordo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Prodi, sentito dal nostro Sergio Nava, a proposito di Helmut Kohl, che sapete oggi è morto, 87 anni, è stato cancelliere per molti anni, una lunghissima carriera la sua politica, e è stato soprattutto il padre considerato della riunificazione delle due Germanie, anche uno dei padri dell'Europa unita, dell'Europa contemporanea, diciamo. Ne parleremo con un ricordo appunto dell'ex cancelliere, e poi molte altre notizie, come sempre. Siamo a venerdì, ultima puntata della settimana, quindi un bilancio anche della politica italiana. Avete sentito appunto Prodi tra l'altro è molto corteggiato nelle ultime settimane. Anche Renzi l'ho incontrato ieri, lui ha detto ma io sono un felice pensionato, però diciamo insomma che l'idea di ritornare probabilmente a riunificare le forze della sinistra e del centro-sinistra potrebbe non dispiacergli. Diciamo che sono vari corteggiamenti in tutte le direzioni, nei vari partiti e nelle maggiori forze politiche, che sembra un po' di assistere alla stagione degli amori. Ne parleremo poi per alleggerire, anzi prima ci saranno gli aggiornamenti da Londra, perché purtroppo vedevo poco fa che è ufficiale, che ecco, un'agenzia di pochi istanti fa, che Gloria e Marco, i due italiani dispersi a Londra nel rogo del grattacielo, sono ufficialmente morti. E poi dicevo, per cercare di alleggerire un po', parleremo anche della classifica dei mari migliori in Italia, sembra che la Sardegna sia la regina, e ci sarà naturalmente anche il meteo. Quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, fino alle 22, sempre insieme tutte le sere, per essere costantemente aggiornati sui fatti principali dall'Italia e dall'estero. 349-238-6666 il numero se volete scrivere i vostri commenti e le vostre opinioni, il numero per SMS e WhatsApp, e poi c'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte. Quindi sentiamo in sintesi, come sempre, che giornata è stata. Germania, 87 anni, è morto Helmut Kohl, il padre della Germania Unita. Fu cancelliere dal 1982 al 98 per la CDU. Il commento della cancelliera Merkel: ha cambiato la mia vita, gli sono grata. La tragedia della Grenfell Tower, sale il bilancio dei morti e dispersi. I superstiti protestano con rabbia contro la prima ministra May, esclusa l'ipotesi dolosa. E avete sentito appunto, vi ho detto poco fa, morti ufficialmente Gloria e Marco. Stati Uniti, nuova svolta sul Russiagate. Trump ammette: sono indagato, ma chi mi accusa è chi mi disse di licenziare il direttore dell'FBI, e intanto cancella l'accordo di Obama con Cuba. Mosca annuncia: ucciso il leader dell'ISIS al-Baghdadi, ma poi precisa: stiamo verificando. Politica italiana, Lega, Movimento 5 Stelle, botta e risposta sull'alleanza. Salvini dice benvenuti sui temi condivisi, ma Fico frena e precisa distanze siderali. Esselunga non è in vendita, lo scrivono in una lettera ai dipendenti Giuliana e Marina Caprotti dopo l'offerta cinese. Amazon intanto compra Whole Food. Sciopero dei trasporti, venerdì nero, oggi soprattutto a Roma. Il garante avverte: la legge ha bisogno di un restyling. È morto il grande erborista francese Messeguet, aveva 95 anni, è stato scrittore, uomo politico, presidente di squadre di rugby, appassionato di erboristeria, è considerato uno dei precursori della fitoterapia. Mare, la Sardegna è la regina della classifica della Guida Blu. Partiamo quindi dalla morte dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl. Il leader cristiano-democratico fu l'artefice della riunificazione delle due Germanie, che volle contro ogni critica appena un anno dopo la caduta del muro di Berlino. Proprio a Berlino riportò la capitale. Insieme al presidente francese Mitterrand fu anche uno dei più solidi paladini dell'Europa unita, artefice dell'Unione monetaria e dell'euro. Kohl fu cancelliere prima della Germania Ovest, poi del paese riunificato per 16 anni, dall'82 al 98, per ora il record di longevità al potere. Era uno storico di formazione, esperto di paesi europei, dotato di visione su larghi orizzonti. Gli ultimi anni sono stati infelici anche a causa dello scandalo Tangenti, che mise fine alla sua carriera. E ricordandolo, la cancelliera Merkel ha detto: sono personalmente molto grata a Kohl, ha cambiato la mia vita, tutti tutti possiamo essere riconoscenti a lui per quello che ha fatto per i tedeschi, per il nostro paese. E tra poco vi dicevo un più ampio ricordo della sua lunga carriera e della sua dimensione di statista di livello internazionale. La tragedia della Grenfell Tower, sale la protesta a Londra dopo il rogo del grattacielo Kensington. Manifestazione oggi davanti al municipio, tensione con la polizia, c'è stato anche un arresto. La regina col principe William hanno fatto visita al quartiere. La prima ministra May invece è andata a trovare i feriti che l'hanno contestata. Contro il governo si è espresso il sindaco Khan, ignobile politicizzazione, invece ha replicato il suo predecessore Boris Johnson, che adesso è ministro degli esteri. I morti sarebbero almeno 76, e poi si parla di almeno 76 dispersi, almeno 70 morti, quindi cifre ancora non chiarissime, comunque tanti purtroppo. E poi la conferma che i due giovani italiani dispersi, Gloria e Marco, sono morti. Stati Uniti, Donald Trump ammette di essere indagato nell'inchiesta sul Russiagate. Donald Trump affida a Twitter il suo pensiero, con un cinguettio del mattino attacca il procuratore speciale Robert Mueller e conferma di essere sotto indagine. Sono indagato per aver licenziato il direttore dell'FBI dall'uomo che mi ha detto di licenziare il direttore dell'FBI. Caccia le streghe, scrive il presidente americano su Twitter. La vicenda è quella del licenziamento di James Comey, da lui silurato il 9 maggio scorso. Ma non è ben chiaro a chi si riferisca su Twitter Trump, parlando dell'uomo che gli avrebbe detto di licenziarlo. Secondo alcuni si sarebbe riferito a Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate. Per altri la stoccata è per il viceministro della giustizia Rod Rosenstein, che supervisiona tutte le questioni relative al Russiagate. Intanto è emerso che anche Jared Kushner, il genero di Trump, è sotto indagine. Il marito di Ivanka, l'uomo che è diventato il più potente tra i consiglieri del presidente, è finito nell'inchiesta sulle interferenze del Cremlino durante la campagna elettorale 2016. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro Trump è più intenzionato che mai a cancellare o almeno a riscrivere l'accordo siglato da Obama, vi ricordate, un po' di mesi fa, con Cuba, secondo le sue condizioni di Trump. Con effetto immediato, dice, sto cancellando l'accordo completamente unilaterale dell'ultima amministrazione con Cuba, annunciato in un discorso a Miami, in Florida, poi aggiunto l'ambasciata americana a L'Avana resta aperta nella speranza che i nostri paesi possano intraprendere un cammino molto migliore. Ed è ancora un mistero invece la sorte del numero uno dell'ISIS al Baghdadi. La Russia annuncia lo abbiamo ucciso, però poi precisa notizia da verificare. Sentiamo Alberto Negri. Come fu per Osama Bin Laden, anche la caccia al capo del califfato Abu Bakr al-Baghdadi è costellata da clamorosi annunci, da molte smentite. Non è la prima volta che era stata dichiarata la morte di Baghdadi, colpito una volta dagli iracheni, un'altra volta dagli americani, e tutte queste presunte morti si sono poi rivelate false. Questa volta sono i russi ad affermare di averlo fatto fuori in un raid del 28 maggio alla periferia di Raqqa, capitale dell'ISIS, sotto assedio della coalizione curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti. Comunque anche la morte di al-Baghdadi eventualmente non sarebbe la fine della guerra in Siria, perché la guerra in Siria continuerà anche se il califfato dovesse svanire e perdere i territori. La vera posta in gioco adesso è l'influenza dell'Iran nella regione, ed è questo a cui puntano gli americani con i loro alleati sauditi e appoggiati da Israele. L'ISIS è un bersaglio, sì, ma non è più il bersaglio di primo piano della guerra in Siria. E passiamo alla politica italiana con il botta e risposta sull'ipotesi di alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle. Tra gli strali di Matteo Renzi, le proposte di Matteo Salvini, i rifiuti di Roberto Fico, lo Ius Soli viene rimandato a dopo le amministrative. Il segretario PD attacca chi ha scatenato la rissa in aula a Palazzo Madama come la Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle che annuncia il no. Che cosa hanno da dire oggi quei tanti esponenti del mondo cattolico che qualche giorno fa non soltanto ci sottolineavano con grande entusiasmo la svolta francescana di Beppe Grillo, le grandi attrici o le cantanti o i grandi personaggi che si sono, i filosofi che hanno detto nel mondo della sinistra che erano delusi dal Partito Democratico. C'è poi la questione della possibile alleanza tra Lega e 5 Stelle. Salvini apre a Beppe Grillo: chiunque sostenga le posizioni della Lega, ad esempio sull'immigrazione, è il benvenuto. Ma dal movimento arriva la replica di Fico: tra noi e la Lega la distanza è siderale. Noi non parliamo di ruspe, non facciamo campagne criptofasciste. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ci torniamo anche sulla politica italiana. Esselunga non è in vendita, lo confermano Giuliana Caprotti, presidente onoraria di Esselunga, e la figlia Marina, vicepresidente del gruppo, titolare del 70% della catena di grande distribuzione. Lo scrivono che non è in vendita Esselunga in una lettera inviata ai dirigenti del gruppo in seguito alle notizie di stampa che parlavano, vi ricordate ieri, di possibili acquirenti cinesi. C'era una proposta da 7 miliardi e mezzo. Affare fatto invece tra il colosso dell'e-commerce Amazon e la catena dei supermercati bio Whole Food, un'acquisizione da quasi 14 miliardi di dollari. E parlando di scioperi, invece è stata una giornata difficile per i trasporti locali, con questo sciopero indetto da alcuni sindacati autonomi e di base. Forti disagi soprattutto a Roma: chiusa la metro, traffico in tilt in centro, e con il garante Giuseppe Santoro che ha detto la legge ha bisogno di un restyling, la legge sul diritto di sciopero. È morto il grande erborista francese Messeguet, aveva 95 anni, è stato scrittore, uomo politico, presidente di squadre di rugby, appassionato di erboristeria e considerato come uno dei precursori della fitoterapia. E poi questa notizia del Gay Pride a Madrid: per la rivista Tiempo sarà l'evento mondiale più redditizio, pensate, molto più dei giochi olimpici o di una esposizione universale. Il comune di Madrid attende dalla festa mondiale gay del World Pride, che accoglierà dal 23 giugno al 2 luglio, un ritorno economico di quasi 400 milioni. La manifestazione attirerà nella capitale spagnola, si prevede, 3 milioni e mezzo di persone da tutto il mondo. Si concluderà il 2 luglio con la spettacolare sfilata dell'orgoglio gay sulla maestosa Gran Via nel cuore di Madrid. Per chiudere, il mare: la Sardegna è la regina della classifica della guida blu di Legambiente con Touri Club Italiano. Di questo parleremo più tardi, approfondiremo un po' questa classifica anche per capire quali sono i criteri. Allora, vi ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, i vostri commenti, sempre per voi lì giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è il 349 238 6666. Walter, che ha paura che al-Baghdadi, dice, è morto, forse speriamo che non rispunti sotto il letto di Putin, si sa, no, naturalmente tutto da verificare. E poi qualcuno che dice spiritosamente, si firma Balanzone, Renzi Prodi dopo la rottamazione, scusate, il riciclo. In effetti, diciamo che riemergono un po' di personaggi della politica un po' d'antan, diciamo, a parte Prodi, ritorna, lo sapete, Berlusconi, che dice ormai il centrodestra è unito inesorabilmente, e fra l'altro, se riusciamo a sentirlo tra un po', anche D'Alema, Massimo D'Alema, a Foggia, durante un convegno, ha detto: ma insomma, se i pugliesi decidono di candidarmi, mi dovrò candidare. Ne parliamo tra poco. 349 238 6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Sto guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666, i vostri due canali qui per interagire con la trasmissione insieme, quindi fino alle 22 come tutte le sere, per fare un giro dell'Italia e del mondo nei fatti principali e per raccontarvi a fine giornata quelle che sono state le notizie più importanti. Non perdete quindi neanche un minuto di Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, a proposito di una notizia importante. Tra poco parleremo di Helmut Kohl, che sapete è morto oggi a 87 anni, molte comunque le notizie che approfondiremo man mano con gli ospiti. A proposito di messaggi, Trump, dice questo ascoltatore, un pericolo pubblico, vorrei sapere cosa sta facendo di male Cuba, perché vi dicevo, ha annunciato di voler o eliminare o comunque rivedere l'accordo che Obama aveva fatto con Cuba piuttosto di recente, insomma prima della fine del suo mandato. Vi ricordo, se avete acceso puntualmente, quali sono le notizie più importanti. parte l'ultima, che purtroppo è arrivata la conferma da parte del legale della famiglia della morte di due giovani italiani dispersi nel rogo di Londra, Gloria e Marco, e intanto sale la protesta contro la prima ministra Theresa May da parte dei superstiti. Poi ucciso al Baghdadi è l'annuncio di Mosca, ma è un giallo perché i russi poi hanno detto stiamo verificando. Nuova svolta del Russiagate, Trump ammette sono indagato, ma chi mi accusa è colui che mi disse di licenziare il direttore dell'FBI. E poi appunto questa decisione di eliminare o di rivedere l'accordo con Cuba. Sciopero dei trasporti in Italia, un venerdì nero soprattutto a Roma, il garante avverte la legge ha bisogno di un restyling. E poi è morto Helmut Kohl, appunto protagonista della storia europea, aveva 87 anni, è stato autore della riunificazione tedesca. Lega Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda il dibattito politico italiano, botta e risposta tra le due forze politiche sull'alleanza, con Salvini che dice siete benvenuti su temi condivisi, però Fico prende le distanze e dice, anzi parla di distanze siderali. E poi Amazon compra la catena di supermercati Bio Whole Food, mentre è ufficiale per il momento, almeno, che Esselunga non è in vendita. Quindi la morte di Helmut Kohl, vi dicevo, 87 anni, ex cancelliere tedesco dal 1982 al 1998 per la CDU, i cristiano-democratici, lo stesso partito della cancelliera Angela Merkel, considerato il padre della riunificazione tra le due Germanie che erano state divise dalla guerra fredda, e questa riunificazione che è avvenuta il 3 ottobre del 1990 e aveva favorito Kohl la caduta del muro di Berlino, e quindi aveva iniziato questo suo capolavoro diplomatico e politico della sua lunga carriera, incise non poco quindi sulla storia dell'Europa e anche quella del mondo. Pensate, le bandiere europee adesso a Bruxelles sono a mezz'asta, la cancelliera Merkel ha detto ha cambiato la mia vita Kohl, gli sono grata, e tutti i tedeschi che gli devono essere riconoscenti. Macron, presidente francese, dice artefice della Germania Unita e dell'amicizia franco-tedesca, con Helmut Kohl perdiamo un grandissimo europeo. Si è pronunciato anche Bush padre, che ha detto Kohl è tra i più grandi leader del dopoguerra, aver lavorato fianco a fianco con un mio buon amico per raggiungere una pacifica fine della guerra fredda e l'unificazione della Germania nella NATO, dice, resterà una delle più grandi gioie della mia vita. E ha parlato anche Prodi, intervistato dal nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Beh, diciamo che tra poco ascolteremo anche le parole di Prodi. Abbiamo tagliato le parti in cui Prodi ha ricordi più personali della sua conoscenza di Helmut Kohl, anche perché ricordiamo Prodi è stato premier proprio nei due anni finali della cancelleria. Quindi dal 96 al 98. Esatto. Diciamo una cosa importante, che con Helmut Kohl se ne va non solo un pezzo di storia del Novecento importantissimo, ma forse se n'è andato anche l'ultimo grande statista europeo. Figlio di una generazione che ha vissuto la guerra in prima persona e che ha cercato di riparare poi con le sue azioni politiche a quella guerra. Statista anche nella sconfitta, perché anche quando poi ha lasciato la CDU nel 98 sull'onda dello scandalo Fondi Neri, che ha messo seriamente in crisi il partito, anche per colpa sua, perché lui sapeva di quel meccanismo. Quindi di finanziamenti illegali al suo partito. Esatto, però sbagliò. Ma due cose che forse lo differenziano da tanti politici di oggi e anche di casa nostra. La prima, non fece mai i nomi di quei finanziatori, perché disse avevo dato loro la mia parola d'onore, non avrei mai rivelato la loro identità, ma soprattutto lui non prese un euro di quei soldi. Cioè, in un paese come il nostro, abituato a parlare di tangenti un giorno sì e l'altro pure, Helmut Kohl... Cioè andarono tutti al partito quei soldi. Erano soldi che lui di fatto raccolse in qualche modo per il partito, ma basta guardare casa sua, Ludwigshafen, una normale villetta, non prese un solo marco dell'epoca. Quindi anche negli errori si rivelò comunque un uomo di una statura totalmente diversa, non solo politica ma anche umana. La grande statura, tanto Sergio, che fu definito già a metà della sua carriera un gigante, insomma, della politica e della diplomazia internazionale. Prima di parlare poi dell'altra parte finale triste della sua vita, sentiamo allora questo ricordo di Prodi, che ho fatto sentire anche all'inizio, un po' sul carattere, anche sul loro l'ironia, primo incontro l'ironia, con Prodi Premier, no? Sì. Sentiamo. La prima volta dopo la mia nome da Presidente del Consiglio andai a Bonn, perché allora la cancelleria era a Bonn, e fu un lungo colloquio col cancelliere, bello, pieno e mi accompagna l'elicottero e dice: ah, com'è stato bello, proprio mi sono trovato bene con te. E poi mi guarda e dice: ma chi viene la prossima volta? Ecco, questo era Helmut Kohl, affettuoso e poi pungente, no? E in una frase mettevo in rilievo tutto il calore, la possibilità di cooperare assieme, ma anche la debolezza del nostro paese. Un paese che vede, che ha visto continuamente alternarsi governi, chissà crisi di governo e altri, no? Quindi, senti, poi dicevamo, quindi un grandissimo statista che tutti ricordano, insomma, come appunto questo gigante, che però poi è crollato, dicevi, sia per questa questione dei fondi neri che l'ha insomma buttato nel dimenticatoio, è stato costretto a lasciare la CDU, però anche per vicende personali molto tristi. Ma, no? Sì, diciamo nel 2001 il suicidio della storica moglie Anne Lore, che molti ricorderanno, lo accompagnava negli anni appunto del suo governo, e seguì un periodo anche di malattia, tanto che gli ultimi anni Kohl li visse su una sedia a rotelle, dopo diverse operazioni. Si risposò nel 2008, anche se i figli non approvarono questo nuovo matrimonio. È anche interessante, qui vorrei far ascoltare brevemente la seconda parte dell'intervista con Romano Prodi, perché Romano Prodi lo ha incontrato negli ultimi anni. E Kohl in qualche modo gli ha lasciato però un messaggio di speranza in anni difficili per l'Europa. Lui, che dell'Europa è stato uno dei padri, se non il padre, con François Mitterrand, ha lasciato un messaggio di speranza in quel colloquio che Prodi ora ci spiega, ci rivela. Proprio le ultime parole del colloquio sulle difficoltà dell'Europa, per stati più di 2 ore su questi temi, alla fine però mi guarda e mi dice: c'è tuttavia una nuova generazione di giovani che capisce l'Europa, che si rende conto che dobbiamo stare assieme, che non ha più l'idea dei confini, vedrai che questa generazione finirà con dare una nuova linea al nostro continente. L'ho interpretata anche in modo un po' consolatorio, se vogliamo, ma c'era anche qualcosa, spero, di profetico. Ma qualcuno scrive: un po' come Craxi, direi completamente diverso. No, non mettiamoli assieme, per favore. Sergio Nava. Grazie, Sergio. Grazie, ciao. Ciao, Sergio. E adesso invece dal gigante Kohl passiamo alla dimensione della politica italiana, con essenzialmente questa settimana il post amministrative, dopo il primo turno, perché sapete che poi domenica prossima c'è il secondo turno, il ballottaggio, e il tema incandescente dello Ius Soli, di cui abbiamo parlato diffusamente ieri, approdato in Senato con il relativo disegno di legge che ha provocato un vero parapiglia, la ministra Fedeli contusa, spintoni, urla, un parlamentare che sta trascinato fuori, cartelli, insulti, insomma un disegno di legge che ha acceso molto gli animi, che era fermo al palo da 2 anni, sostenuto dal PD, da MDP, che sono i fuoriusciti dal PD, Sinistra Italiana, e osteggiato invece da Lega e Forza Italia, che è arrivata a paventare la sostituzione etnica degli italiani, il Movimento 5 Stelle che si è astenuto. Ius Soli, cioè il disegno di legge relativo alla riforma sui requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, che prevede 2 casi specifici in cui un bambino nato da genitori stranieri ha il diritto di essere considerato italiano a tutti gli effetti. Ci sono 2 possibili opzioni: lo Ius Soli temperato, che riguarda i bambini nati in Italia che hanno almeno uno dei 2 genitori stranieri in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione Europea di lungo periodo, e lo Ius Culture, che riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia entro il compimento di 12 anni, che hanno però frequentato regolarmente un ciclo scolastico di almeno 5 anni. Però tutto questo andrà, come abbiamo capito ieri, finirà la discussione dopo il ballottaggio, quindi per il momento mettiamolo da parte, se non facendo sentire, giusto per riepilogare, 2 pareri, 2 motivazioni opposte, che sono quelle di Zanda del PD e poi invece sentiamo Centinaio della Lega. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che hanno vissuto in Italia, che hanno studiato in Italia. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che sono italiani e che per questo hanno diritto di avere la cittadinanza. Sullo Ius Soli una battaglia che diventa anche fisica, nel momento in cui vogliamo portare avanti la nostra idea, cioè che lo Ius Soli non deve essere approvato perché la legge va bene così com'è, e nel momento in cui chiediamo di intervenire in aula e la maggioranza non lascia parlare l'unica voce non in linea con tutto quello che sta portando avanti questo governo e questa maggioranza. Chiedevamo semplicemente che il provvedimento tornasse in commissione. Questo è il risultato grazie alla gestione di un presidente, il presidente Grasso, che se noi dicevamo in passato che sembrava l'arbitro Moreno, adesso mi ricorda molto di più un dittatore del Sud America o cose del genere. E vabbè, per il momento capitolo chiuso, ne parleremo, ritorneremo a parlare tra un po'. Invece con Barbara Fiammeri, ciao cara Barbara, di Sole 24 ciao. Ore, parliamo di un tema, come si può dire, più gustoso delle possibili alleanze, che sembra, dicevo all'inizio, di assistere un po' alla stagione degli amori, no? Con tutti questi corteggiamenti. Renzi che da una parte lusinga Berlusconi, il quale insomma sembra che ci starebbe, e poi Renzi che invece va verso Pisapia che si offende e dice beh, insomma, un giorno sta con lui, un giorno sta con me. Vogliamo sentirlo, Pisapia, questo passaggio? Non dico che mi sono offeso, perché non sono un tipo che si offende, perché non si può passare da un'ora all'altra da Berlusconi a Pisapia. Questo è il primo punto di partenza, perché credo di aver dimostrato nella mia vita professionale e nel mio impegno politico, mantenendo la netta distanza tra la professione politica, che ho sempre non solo votato, ma mi sono sempre battuto contro la già persona. Insomma, poi Pisapia ha lanciato una convention del suo campo progressista per il 1° luglio a Roma. Renzi ha detto che non è stato invitato e quindi il 1° luglio sarà invece a vedere il concerto di Vasco Rossi. Poi Renzi in realtà ieri ha incontrato anche Romano Prodi. Dice Fabio: Prodi brava persona, il suo diniego con stile dell'invito a rientrare in politica, l'Italia è un paese per giovani, lo stima per aver detto insomma che lui è felicemente pensionato. Poi bisogna vedere fino a che punto. E poi Barbara, la ritrovata sintonia nel centrodestra tra Lega e Forza Italia, e la Lega, questa è l'alleanza che forse fa più discutere, la Lega che corteggia il Movimento 5 Stelle, che dice siete benvenuti su temi condivisi. Fico però oggi ha frenato, ha detto abbiamo distanze siderali. Che pensi tu di questi appunto amoreggiamenti, per così dire? Ma Fico, diciamo, fa parte dell'ala cosiddetta ortodossa, ma il corteggiamento, diciamo, che è reciproco, se non, cioè, quello di Salvini è esplicito, diciamo, come corteggiamento, per usare la metafora degli per amori, usare questa sì. metafora degli amori, sì. Mentre quella di Grillo è sui temi della Lega, no? Perché è evidente che all'indomani del risultato deludente per i 5 Stelle delle amministrative c'è stata una virata a destra, in particolare sui temi dell'immigrazione, che è il tema, diciamo, che è il cavallo di battaglia di Salvini. E prima con la Raggi che dice basta profughi, dopo che aveva eletto inizialmente Roma città dell'accoglienza, poi con Grillo e con i 5 Stelle che appunto si astengono al Senato sullo Ius Soli, che sappiamo che al Senato l'astensione equivale a un voto contrario, quindi diciamo sono sulle posizioni della Lega e di Forza Italia. Perché questo? Beh, perché da quello che si vede dal flusso dei voti di queste amministrative, in particolare nelle liste civiche, che sono state, come sai, numerosissime in questa tornata elettorale, sì, molto più che in passato, beh, una parte del voto grillino è andato a destra, è andato in particolare verso queste liste civiche. E adesso Grillo, che guarda ovviamente già alle elezioni politiche che si svolgeranno presumibilmente la prossima primavera, ma anche alle elezioni di novembre in Sicilia, punta a riprendersi quei voti e quindi quell'elettorato che probabilmente ha votato il candidato di una lista civica o in appoggio a un candidato sindaco del centrodestra, ma nel momento della scelta alle politiche potrebbe tornare a votare per il Movimento 5 Stelle, tanto più che andremo con un sistema di voto proporzionale dove non conterà più il leader del partito, ma molto di più il simbolo che ci ritroveremo sulla scheda. E quindi le coalizioni. Senti, a questo proposito, di questo, cioè, della possibile alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, c'è questo giallo, no, dell'incontro tra Salvini, leader della Lega, e Casaleggio del Movimento 5 Stelle. Era stata riportata questa notizia da Repubblica. Il direttore Calabresi, dopo essere stato smentito al Movimento 5 Stelle, invece l'ha confermata. Sentiamo Calabresi. Repubblica conferma che l'incontro tra Matteo Salvini e Davide Casaleggio c'è stato. Siamo in grado di confermarlo perché abbiamo due ottime fonti che ce lo hanno raccontato ieri, con cui abbiamo fatto le nostre verifiche e che ce lo confermano anche oggi. L'incontro c'è stato, si è svolto a Milano ed è stato chiesto dal leader della Lega. Casaleggio glielo ha accordato e hanno parlato ed era precedente al momento in cui la legge elettorale è fallita nell'aula di Montecitorio. Sentiamo cosa ha risposto Casaleggio. Io voglio sapere qual è la data, il luogo e l'ora in cui avrei incontrato Matteo Salvini. Dal canto mio pubblicherò la mia agenda personale e se necessario porterò i testimoni che dimostreranno che io in quel momento non ero altrove, stavo incontrando qualcun altro. Se sarà dimostrato, e sarà dimostrato, che io in quell'ora, in quel luogo e in quel momento stavo facendo altro, allora credo che coerentemente il direttore Calabresi dovrà dimettersi. E se invece il direttore Calabresi non vorrà pubblicare queste informazioni, che le sue ottime fonti sicuramente dovrebbero avere, allora vorrà dire che procederò alla querela oppure un gran giurì per difendere la mia onorabilità. Insomma, difficile qui prendere posizione, ragione uno, ragione l'altro, uno dice una cosa, uno dice l'altra. Barbara, comunque leggevo su un sondaggio del quotidiano La Stampa che 3 italiani su 4 sarebbero contrari a una possibile alleanza tra PD e Forza Italia. Allora, anche qui facciamo un attimo. L'alleanza tra PD e Forza Italia se ne parla e se ne parla dall'inizio di questa legislatura. Vorrei ricordare che questa legislatura nasce con un governo PD Forza Italia e che il governo PD Forza Italia si rompe nel momento in cui il Parlamento, cioè il Senato, decide di estromettere Silvio Berlusconi appunto da Palazzo Madama. Per la legge Severino. È lì che si rompe l'alleanza, non è che si rompe su una questione programmatica, si rompe per un fatto politico importante, perché il PD conferma appunto di voler votare per contro Silvio Berlusconi e lì si rompe l'alleanza e si rompe anche Forza Italia, perché sappiamo appunto che Alfano a quel punto decide di rimanere nel governo con una parte di parlamentari che sostengono la maggioranza. Quindi diciamo le larghe intese sono già in essere, ecco, in questo paese. Si tratta perché solo ce di lo dimentichiamo ogni tanto. È vero. Meno male, ma c'è Barbara Fiammeri che ce lo ricorda. Grazie cara Barbara e buon fine settimana a te. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Direi che dobbiamo prenderci una pausa di ricreazione adesso. Ritorniamo tra pochissimo a 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS, oppure i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Notte di lacrime, preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Mariam Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti, per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete sempre al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato della morte dell'ex cancelliere Helmut Kohl. Adesso ci colleghiamo tra pochissimo con Londra. Vi ricordo che le notizie più importanti sono appunto la morte dell'ex cancelliere tedesco Kohl, che fu padre della riunificazione delle due Germanie, e la tragedia della Grenfell Tower, di cui parleremo tra pochissimo per quanto riguarda gli aggiornamenti. Stati Uniti, nuova svolta sul Russiagate. Trump ammette: sono indagato, ma chi mi accusa e chi mi disse di licenziare il direttore dell'FBI. Quindi restiamo su Londra, anzi colleghiamoci con la nostra Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia. Buonasera. Allora, davvero un periodo difficile, Giorgia, per la Gran Bretagna, no? Tra attentati, instabilità politica, la Brexit e la sua complessa gestione, poi questo devastante incendio, l'ultimo aggiornamento tragico e purtroppo che i due giovani italiani dispersi sono, secondo il legale della famiglia, ufficialmente morti, no? Sì, e come questo si sta attendendo, oggi è stato dato l'ultimo dato ufficiale, 30 morti, ma qui già i media parlano di 70 corpi che sarebbero appunto all'identificazione degli inquirenti e che quindi presto potrebbe essere dato un nome anche a loro, quindi quello che avevamo anticipato nelle precedenti edizioni, quindi di un numero che sale, che potrebbe arrivare anche a oltre il centinaio, purtroppo è quello che sta diventando verità al momento. Senti, oggi c'è stata la regina con il principe William lì nel quartiere di Kensington, dove è stato distrutto dal rogo il grattacielo, mentre la prima ministra May è andata a visitare i feriti e i superstiti, che però l'hanno contestata duramente, no? Dicendo vergogna, ti codarda, perché ha aspettato 2 giorni a farsi viva. Sì. Ebbene, ora mi dispiace usare qualcosa che potrebbe sembrare non sensibile, ma è anche il suo governo che ora potrebbe andare in fumo, perché anche gli stessi giornali conservatori la accusano di non essere umana. È arrivata troppo tardi in tutto, è arrivata troppo tardi in un posto dove doveva correre subito, ovvero il luogo della tragedia. È andata e non ha incontrato le famiglie. Ci sono arrivati prima Jeremy Corbyn, l'opposizione, Khan, il sindaco di Londra, di nuovo laburisti, la regina e William, tutti sono arrivati prima di lei. È arrivata tardi con un pacchetto di aiuti, cibo e vestiti alle famiglie. Oggi è stato presentato stasera 5 milioni di sterline, quando già i volontari, la comunità che si è stretta attorno all'area e ai superstiti aveva già raccolto 5 milioni di sterline, quindi stasera, ed anzi in corso in questo momento, sono 3 fortissime proteste congiunte, una a Westminster davanti al governo, una davanti al comune di Kensington e Chelsea, nel cui apparteneva la torre dell'inferno, chiamiamola così, un sit-in ad Oxford Circus, quindi il vero centro di Londra, e tutti chiedono giustizia. Qualcuno ha anche chiesto le dimissioni della May, ancora, è la terza volta nel giro di 2 settimane, quindi le sta crollando veramente il terreno sotto i piedi, e staremo a vedere. Al momento quello che è più importante è la giustizia, è capire come aiutare questi superstiti. Si parla anche oltre al pacchetto appunto monetario, dovrebbero essere dato un alloggio nelle prossime 3 settimane. Staremo a vedere In quali tempi, insomma, con quali condizioni anche. Grazie Giorgia, esatto. Scaturro, grazie Giorgia e buon lavoro, buona continuazione a Londra. Ciao Giorgia. Tra l'altro un'inchiesta del Times dice che se avessero messo in questo grattacielo, che è stato ristrutturato di recente, con una spesa di oltre 8 milioni di sterline, sarebbero bastate 5.000 sterline in più per mettere dei pannelli ignifughi efficaci. Pensate, viabilità è di nuovo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora almeno quasi 10 minuti insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo appena parlato con Giorgia Scaturro da Londra, che ci ha dato gli ultimi aggiornamenti, le contestazioni molto forti nei confronti del governo May e della stessa prima ministra, e poi purtroppo la notizia, la conferma della morte di 2 giovani italiani che erano andati per dispersi. L'altra notizia grossa della giornata è la morte dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, considerato il padre della riunificazione delle 2 Germanie, e poi nuova svolta del Russiagate, Trump che ammette sono indagato. Adesso invece, un po' per alleggerire, parliamo di mare e del Guide Blu del Lega Ambiente di Touring Club Italiano, che ci orientano a capire dov'è il mare più bello in Italia. Lo facciamo con Rossella Muroni, che è presidente nazionale di Lega Ambiente. Buonasera Muroni. Buonasera a tutti. Allora, pare che la regina sia la Sardegna, e in effetti chi ha visitato la Sardegna, chi vede il mare della Sardegna, non può pensare altrimenti, no? Sì, infatti abbiamo trovato tante località blu nella Sardegna, le abbiamo premiate con le 5 vele, e quest'anno abbiamo anche qui, come nelle altre parti d'Italia, scelto di premiare interi tratti di costa, quindi non singoli comuni, e in Sardegna si piazza il primo litorale proprio in assoluto, che noi indichiamo come meritevole di una vacanza a 5 vele, che è il litorale di Chia. È un posto magico vicino a Domus de Maria, in provincia di Cagliari, che verso sud, suggeriamo, quindi, no? Sud della Sardegna. Esatto, che suggeriamo, ce ne sono altre 5 di luoghi in Sardegna, ma abbiamo premiato anche la Maremma Toscana, di nuovo in Sardegna Baronia di Posada, il Parco di Tepilore, insomma sono tante i luoghi, i comprensori come li chiamiamo noi, che in Italia meritano una vacanza, perché sono luoghi belli ma sono anche luoghi ben gestiti in maniera attenta all'ambiente. Le prime 4-5 della classifica quindi? Dunque, abbiamo appunto premiato il litorale di Chia in Sardegna, poi abbiamo la Maremma Toscana, Baronia di Posada e Parco di Tepilora, il litorale di Baunei di nuovo in Sardegna, l'Alto Salento Adriatico, la costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari di nuovo in Puglia, l'Isola del Giglio, di nuovo Planargia vicino a Bosa, Oristano, l'Isola di Ustica, la Gallura e l'Arcipelago della Maddalena, il Lento, l'isola di Salina, la costa di Maratea, il golfo di Policastro, le Cinque Terre e il litorale nord del Trapanese, tutti luoghi da scoprire, dove l'enogastronomia ma anche la difesa dell'ambiente, la qualità delle acque insieme agli occhi puntati dei circoli della Legambiente fanno appunto di questi luoghi un luogo meritevole di vacanza, perché laddove il turismo viene ben gestito va premiato anche nelle scelte di consumo, quindi certo. Invitiamo gli italiani ad andare in vacanza in Italia e scegliere questi luoghi. Infatti, bellissimi. Quello che mi piacerebbe sapere poi, Rossella Muroni, in sintesi, sono i criteri, perché le devo dire con sincerità, in questa lista che guardavo ci sono anche delle località che sono molto belle, che offrono servizi adeguati, dove però, se bisogna guardare proprio il mare, ci sono luoghi che io ho frequentato, che frequento anche per affetto da lungo tempo. Una volta ci si poteva nuotare benissimo, a me piace molto nuotare con gli occhialini e andare a stile libero. Cioè, in alcune di queste località citate, però, io ormai, se mi tuffo, vedo dal mio naso a pochi centimetri più in là. E quindi volevo sapere i criteri, quindi non sono soltanto l'acqua, il mare, la qualità del mare, lei diceva anche i servizi offerti, l'ecosostenibilità. Certo. Adesso non so, diciamo, a quale località in particolare si riferisce, però questi però questi sono luoghi in cui noi abbiamo naturalmente preso i parametri di legge rispetto alla qualità delle acque e l'inquinamento microbiologico, da una parte, dall'altra però abbiamo guardato anche alla gestione, non so, dei rifiuti, delle energie rinnovabili, del traffico, perché poi è importante che per esempio siano località in cui è più facile muoversi in bicicletta piuttosto con delle auto private, cercando anche di premiare anche l'entroterra, per cui è evidente che ad esempio rispetto al colore dell'acqua il mare della Toscana non sarà mai il mare della Sardegna, per intenderci, perché le caratteristiche geomorfologiche sono diverse. Ma noi naturalmente ci atteniamo ai parametri di legge e soprattutto andiamo a verificare per esempio gli impianti di depurazione. I sindaci che ricevono le 5 vele poi sanno benissimo che la Legambiente, avendo più di 500 circoli sul territorio, vengono passati a setaccio tutto l'anno, non riempendo magari un semplice questionario come succede con altri premi, ed è fondamentale anche da questo punto di vista valorizzare l'entroterra, quindi non solo il singolo comune, ma invitare i turisti a visitare l'intero territorio. Guardate, il turismo ha bisogno di politiche di rete, di sinergia, e dei comuni che smettono questa contrapposizione un po' sciocca e tutta italiana e invece fanno appunto comprensorio, fanno offerta turistica integrata e sono pronti ad aprirsi a un turismo internazionale che vuole servizi, prodotti e anche un atteggiamento di qualità nella promozione del territorio. Chiarissimo. Grazie Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente, grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. E visto che tempo di mare, ci interesserà anche sapere che tempo farà anche solo nel fine settimana con il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, il nostro portatore sano di sole. Garantito anche questo weekend. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Ciao. In effetti andiamo verso un fine settimana di bel tempo, con domani ancora temperature elevate, anche oggi è stata una giornata bollente, si replica domani. Per domani vi segnalo qualche temporale sull'Appennino meridionale, ma in realtà è classici acquazzoni estivi, nulla di più. Domenica che succede? Il tempo rimane bello, però domenica avremo un calo delle temperature, quindi per chi soffre il caldo, buone notizie, temperature in diminuzione ma piacevoli, quindi sarà una bella giornata. L'unica L'unica cosa, domenica sulle regioni adriatiche parecchio vento, soprattutto in Puglia. In Puglia venti particolarmente forti. Per il resto ti ripeto, weekend estivo, tutti al mare, sarà uno splendido fine settimana. Grazie, buone notizie da Paolo Corazzoni di Trevi Meteo. Buon tempo a te comunque sia, caro Paolo. Buon tempo a tutti. E ovunque andrai. E noi ci fermiamo brevemente, poi lo sapete che ritorno con le notizie alle 22.